Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Lui è un esordiente, almeno per quanto riguarda la narrativa, perché in realtà è un nome decisamente famoso per quanto riguarda la regia televisiva soprattutto. Stiamo parlando di Duccio Forzano, regista per esempio dei programmi di Fazio, giusto per citarne qualcuno, ma anche di alcune edizioni di Sanremo. Ora è in libreria con il suo primo romanzo, che si intitola Come Rocky Balboa, pubblicato da Longanesi. Duccio, mi costringi a fare una cosa che non faccio mai nel programma, cioè gli ascoltatori del Cacciatore dei Libri lo sanno, cioè io non chiedo mai se un romanzo è autobiografico, perché sappiamo che i romanzieri ci mettono sempre qualcosa di sé. Però trovarmi di fronte a un romanzo dove il protagonista si chiama Duccio, guarda caso esattamente come lo scrittore, e dove si racconta di una vita che poi a un certo punto, insomma, il protagonista arriverà a fare quello che desidera, e quindi a lavorare con le immagini, ad arrivare a fare il regista, mi fa pensare che Duccio e Duccio siano la stessa persona, o no? Sembri Sherlock Holmes. Sì. sì, effettivamente Duccio e Duccio sono la stessa persona. Inevitabilmente all'interno del romanzo ci sono anche delle invenzioni, dei caratteri che ho inventato, però di base c'è la storia della mia vita. La decisione di chiamarlo Duccio è stato proprio perché, diciamo, il nodo del romanzo, che poi posso svelare tutto ovviamente, no? È il nodo dell'incontro con Claudio Baglioni, è una cosa che è realmente accaduta. Mettere il nome di un'altra persona avrebbe falsato tutto. Cioè, è noto, è un incontro noto dal punto di vista professionale, quindi sarebbe stato un po' prendere in giro il lettore, insomma. Ma certo, perché voglio dire, l'incontro con Claudio Baglioni, grazie a diverse diciamo, sliding doors che si sono create, si sono aperte e chiuse, io ho avuto questo incontro. Allora, appurato che questo è un romanzo in parte autobiografico, naturalmente ci sono dei personaggi inventati, io ho trovato che è un romanzo molto intenso e anche molto commovente. Ci sono dei momenti in cui si racconta la storia di Duccio ragazzino, che veramente mi è venuta voglia di abbracciarlo, questo piccolo Duccio, perché per tante cose che poi i lettori scopriranno. La storia inizia a un certo punto, i capitoli sono narrati per anni, diciamo così, per grandi annate, così si ripercorre un po' parte della tua vita. Una mattina il ragazzino Duccio, l'adolescente Duccio, trova un biglietto dove c'è scritto: vai dal panettiere a comprare i biscotti che vi piacciono tanto e prepara la cena. Fai il bravo, ricordati che sei grande e stai attento ai tuoi fratelli. Firmato mamma. Questa mamma va via, abbandona la famiglia, abbandona i figli. In che modo questo abbandono peserà nella vita di Duccio personaggio? Cavolo, questa domanda porterà via tutto il tempo che hai per la tua trasmissione, in realtà. Perché questo è un po' il nodo di tutto. La domanda che ti fai è: sono quello che sono perché lei è andata via o no? E poi se tu analizzi tutto, la domanda ha una risposta che è sì. Tu sei quello, inevitabilmente, perché tutto ciò che hai dovuto affrontare da quel momento in poi, dal momento dell'abbandono in poi, ti ha forgiato in un modo, ha stimolato difese che si sono trasformate in obiettivi. Adesso non voglio fare l'autore colto, ma la resilienza è venuta fuori senza sapere. La resilienza uno non sa di averla. E viene messo alla prova quando gli succede qualcosa di brutto. Esce fuori da sola. Quindi sì, io devo paradossalmente ringraziare mia madre, con cui oggi ho un rapporto meraviglioso, voglio dire. Non è che mia madre non è più nella mia vita. Purtroppo non c'è più mio padre, che non ha potuto in qualche modo anche gongolarsi di ciò che io sono diventato, perché quando ho vissuto con mio padre io ero tutto meno che un ragazzo da grandi prospettive, grandi progetti, perché io già a 12 anni, 13 anni già lavoravo. E quindi lui non ha potuto in qualche modo avere questa soddisfazione. Nel libro lo racconto brevemente, ma c'è solo un aneddoto che mi ricordo perfettamente. Quando lui andava in giro con un giornale dove c'era la mia fotografia insieme alla mia band con cui suonavo allora, e su questo giornale c'era scritto che appunto la band, gli Alta Tensione, avevano vinto un concorso di talent allora, parliamo degli anni 80. Quindi tuo padre era orgoglioso di te? Lui era orgoglioso di me, ma non me lo diceva. E questa è una cosa che io da padre cercherò di evitare. Se io sono orgoglioso di te, dopo che ti rimprovero perché non fai i compiti, ti rimprovero perché non hai fatto questo, ti rimprovero perché c'hai le calze bucate, ti rimprovero. C'era un racconto, scusa, adesso divago un attimo perché mi è venuta in mente una cosa. Mio padre leggeva Reader's Digest, una cosa. Sì, molto... La selezione dal Reader's Digest. Una cosa così, adesso il mio inglese fa. Anche i miei nonni ce l'avevano. Vedi quanto sono vecchio. E c'era un racconto dentro che ho letto anni dopo su internet. Tu pensa, da questa selezione c'era il racconto di un padre che rimproverava suo figlio perché gridava troppo, il tono di voce era alto, perché le calze erano bucate. Quindi da quando il padre tornava in casa, con il figlio piccolino, 8-9 anni, era tutto un rimprovero. Quando è l'ora di andare a dormire, il padre è seduto sulla poltrona, con la sua pipa, col suo giornale, il bambino si avvicina e dopo tutti quei rimproveri gli butta le braccia al collo e gli dice ti voglio bene. Ed è meraviglioso questo. Cioè il figlio che nonostante tutto viene e ti dice che ti vuole bene. Secondo me i padri, le madri dovrebbero fare questo. Dovrebbero sì rimproverare, ma ricordarsi che poi i bambini, purtroppo poi crescono, hanno questo. Ti vogliono bene e te lo dicono anche se tu li hai trattati male. Mio padre in quello ha sbagliato probabilmente e io non vorrei fare lo stesso errore con le mie figlie. Se sei orgoglioso, se sei felice, se hanno fatto una cosa bella, diglielo, sei stata brava, sei stata meravigliosa, non essere falso, la devi rimproverare, rimproverala, ma poi abbracciali e digli sei stato bravo. Questi sono i momenti del tuo romanzo in cui io ho avuto voglia di abbracciare questo duccio ragazzino che poi vediamo crescere, perché in moltissime pagine c'è proprio questo chiedersi perché mamma sei andata via, perché non torni, perché poi ci sono anche, si scambiano delle lettere, lui riceve una lettera, non ne aveva ricevute altre, insomma c'è poi un rapporto che si instaura, ma questo abbandono segna tutta la sua vita, è significativo come a un certo punto per esempio litiga con un amico e si sente tradito anche da questo amico, ma cos'è, sfiga nella storia di questo ragazzino o è, come dire, un meccanismo anche suo, psicologico, in cui tende a ricadere, abbandonato dalla mamma, tradito dall'amico, cioè sembra quasi una storia alla Dickens. Sì, hai ragione, io credo che ci sia una sorta di legge dell'attrazione, no? Quando tu pensi delle cose, inevitabilmente poi accadono. Oggi, a posteriori, dico che allora erano sfighe, erano pugni che ti buttavano per terra, come Rocky Balboa, e che però, a posteriori, sono quelli che ti hanno forgiato, sono quelli che ti hanno insegnato a rialzarti. Io dico sempre, e lo dice anche Rocky, non è importante come cadi, è importante come ti rialzi. E nel momento in cui ti rialzi, se ti rialzi dritto sulle tue gambe, vuol dire che ancora hai da dire qualcosa. Ci sono diverse frasi in questo romanzo che mi hanno colpito, ne ho segnate alcune come faccio spesso con i libri. Ci sono giornate in cui sento dentro di me un'irrefrenabile voglia di cambiare, ma non per essere migliore o perché credo di dover aggiustare qualcosa nel mio io. No, è proprio una voglia incontrollabile di cambiare la mia vita. Questa visione del mondo ti è rimasta anche adesso dopo tanti anni? Ahimè, sì. Sì, ed è da un punto di vista è stimolante, no? Perché, voglio dire, la gente che mi sta intorno mi dice, ma cosa vuoi? Allora, fai i programmi più importanti in televisione, adesso hai addirittura scritto un libro, che cosa vai cercando? Io non vado a cercare nulla, è un'esigenza interna che mi dice, fai, fare. Ed è nata proprio il giorno in cui ho visto il film Rocky. Sono uscito da quel cinema e quel film, bellissimo, tutto quello che ti pare, ha vinto premi, però quel film mi ha detto tu devi fare, perché se stai fermo non accade nulla. E fare non vuol dire fare fino a un certo punto e poi fermarsi, fare vuol dire fare fino all'ultimo dei tuoi giorni, se vuoi godere di qualcosa che sia tuo. Ma tuo, ripeto, non è né egocentrismo né essere egoista, è proprio un'esigenza. Quindi io ancora oggi finisco un lavoro, finisco Sanremo, nel momento in cui è finito, già ho bisogno di fare altro, ho bisogno di rimettermi alla prova. Poi non mi faccio condizionare in televisione dagli ascolti, alti, bassi, belli, brutti. Quando ho fatto una cosa, se sono convinto di quello che ho fatto, lo difendo fino alla fine. Poi può essere la cosa più brutta del mondo, ma io ci credo e quindi la esprimo. Ma questa tua voglia di, appunto, di fare sempre cose nuove, questa voglia di fare, di avere progetti sempre nuovi, di non accontentarti, lo si capisce benissimo dal libro. Prima facevi il meccanico, poi hai iniziato a lavorare con i video, videomaker, che adesso fa appunto una parola figa, all'epoca magari si conosceva meno. Poi alla fine sei diventato regista con la famosa telefonata di Claudio Baglioni a cui accennavamo prima. Ecco, questo tuo aver sempre voglia di fare cose dipende secondo te dal fatto che sei un po' un terremotato dell'anima, cioè ti porti dietro questo imprinting forte dell'abbandono? Guarda, io avrei bisogno di stare con uno psicologo 24 ore al giorno per riuscire. Ma forse tutti. Ah sì, ma per capire questa roba, no? Perché tu la interpreti come una voglia di avere di più. A me personalmente di avere di più non me ne frega niente, ma proprio niente. Non è una questione economica, non è una questione di gratificazione personale, è un'esigenza. Quindi se una cosa non riesco a farla, non la faccio, non mi intestardisco a farla per forza. Se domani l'editore mi chiederà di scrivere un altro libro, io vabbè, a parte che ne sarei onorato perché non pensavo neanche di scriverne uno, figuriamoci due, ma per farlo devo sentirlo dal profondo del mio cuore. Devo mettere in condizione il mio editor schiavista di tagliare altre 400 pagine su 900, perché altrimenti vuol dire che il mio risultato non l'ho ottenuto. È così nella televisione, così nella vita, ma così anche con i rapporti che ho con le persone. Quando arrivo in uno studio televisivo dove non mi conoscono, in qualche modo, mi vergogno anche a dirlo, la mia fama mi precede, ma è sempre sbagliata, è sempre falsata. Cioè tu dicono, ah, arriva Duccio, è quello, è grida, e vuole qui, è un rompiscatole, Invece poi quando io lavoro con le persone, guarda, mi è capitato proprio l'altro ieri, è venuto un fonico con cui ho lavorato durante le prove di 10 cose, è venuto lì, ha alzato la mano, mi ha battuto il 5 e mi ha detto: sei un grande, io non ti conoscevo, ma lavorare con te per me è stato gratificante. Allora, detto questo, il programma può fare anche il 5%, non me ne frega niente. Io ho lavorato con delle persone che hanno capito chi sono, e questo è quello che cerco di raccontare poi nel mio romanzo. Ecco, in questo romanzo si capisce molto di chi sei, però nel momento in cui Duccio Forzano, regista televisivo di fama, hai detto che la tua fama ti precede ed è vero, si mette così a nudo, racconta delle cose anche molto dolorose della sua vita. Perché lo fa? Per chiudere dei capitoli, per chiudere così, per una forma di soluzione, o per cosa? Io credo che questo racconto in fondo mi sia servito in qualche modo, insomma, perché poi in realtà mi ha aperto una serie di canali che stanno sgorgando sentimenti, dubbi, perplessità, dolori che avevo tappato. Cioè dentro di me avevo chiuso tutto in una sorta di corazza. Il libro mi ha aperto, mi ha riaperto delle ferite, e questo sangue in qualche modo cola ed è doloroso molto. Però mi è servito, l'ho fatto per me. Stavolta devo dire, sono egoista, l'ho fatto per me. Se il libro non lo compra nessuno, mi dispiace per Longanesi, Strazzeri, tutti, Però a me è servito perché in qualche modo mi ha liberato da qualcosa che mi stava opprimendo, e non ho ancora finito. Probabilmente dovrò ancora fare un lungo percorso, non so quanto tempo, insomma, 56 anni sono, diciamo, se tu metti un metro, no, a 100, sei a 50, sono a 56, sono già nella fase calante, non so quanto tempo ci sarà ancora per poter risolvere, e se si risolverà tutto questo, ma il discorso è proprio questo, si è riaperto qualcosa che mi serve per liberarmi. Nel romanzo Duccio Personaggio si fa spesso la domanda, appunto, mamma, perché sei andata via, e si pone dei quesiti: perché non torni, perché non possiamo essere una famiglia normale. Duccio Personaggio va a casa di un'amica perché sa che lì viene accolto dal calore di una vera famiglia. Tu prima hai detto: adesso ho un ottimo rapporto con mia madre. Ti sei dato delle risposte a quelle domande che ti facevi di ragazzino? No. È impossibile dare delle risposte, perché comunque non saprò mai la verità, perché mio padre non c'è più, perché mia madre, che è una donna meravigliosa, ha una forza pazzesca, cioè è uno scricciolo che va a 80 all'ora nonostante abbia quasi 80 anni, è una donna incredibile. Io credo di aver preso da lei proprio questa forza e questa energia fisica e mentale. È impossibile trovare una soluzione o dare delle risposte a quelle domande, perché anche se avessi mio padre che mi racconta le sue, mia madre che mi racconta le sue, ognuno avrebbe ragione, e quindi io sarei in mezzo. Non esiste una risposta, devo convincermi che questo è stato e questo sarà. Devo solo cercare di trarre il meglio da ciò che mi è capitato, il meglio da ciò che mia madre ancora oggi mi dice quando la incontro, e il meglio dai ricordi che ho di mio padre, che sono molto lontani, perché mio padre è morto nell'84, quindi sono passati tanti anni, è difficile, come dire, e ricordarsi parola per parola, anche se poi scrivendo il libro, incredibilmente, quando tu scrivi, poi pum, arrivano i ricordi, arrivano flashback, arrivano cose, è come se tu facessi una sorta di ipnosi. Quando ho scritto il capitolo dove dico addio al padre, esatto. Aperto il libro esattamente a questa pagina, pagina 191, addio al padre, 1984. Quando scrivo addio al padre, lo scrivo una domenica mattina, non me lo dimenticherò mai, io avevo appena finito la diretta la sera prima di Che tempo che fa, e vado a dormire, non avevo voglia di andare a dormire in albergo, io ho una sorta di studio chiuso, un ufficio dove montavo quando abitavo al nord, sono andato a dormire in questo ufficio dove c'è un divano letto e mi metto a dormire lì, guardo la mia televisione e mi addormento. Alle 4:30 del mattino mi sveglio, forse perché ho sognato mio padre, forse perché l'ho pensato durante il giorno, non lo so, mi sveglio con il capitolo in testa, mi alzo e vado, diciamo, dove ho la scrivania col computer acceso e comincio a scrivere di getto tutto quello che poi in qualche modo sul libro è stampato, e ti posso garantire che mentre scrivevo mi sono liberato da cose che avrei voluto dirgli, cose che non ho fatto, mi sono inventato questo mio stare su un tavolo col suo bicchiere di vino davanti, col suo bottiglione, per cercare un incontro che non ho mai avuto, me lo sono inventato, ma mi ha liberato talmente tanto che io in qualche modo ho trovato pace rispetto a quell'evento. Il titolo Come Rocky Balboa è evidente, insomma, dalle parole che ci siamo anche detti, poi leggendo c'è proprio il momento in cui Duccio personaggio va a vedere il famoso film, ma hai detto anche tu, Duccio vero, ha avuto una svolta nel momento in cui l'ha visto. È una storia di una persona che ha avuto molte difficoltà nella vita e che comunque ha sempre voluto combattere e rialzarsi. Questo tuo meccanismo di vita, questo modo di affrontare la vita è rimasto ancora così? Io credo che nell'essere umano sia inevitabile avere la sopravvivenza, no? Cioè la sopravvivenza fa parte di noi stessi, poi c'è chi reagisce con forza e chi si lascia andare, però tu ce l'hai l'istinto, inevitabilmente, cioè se io ti punto una pistola sulla testa tu piangi che non vuoi morire, cioè è inevitabile, non è che dici vabbè dai sparami, è così. Nel mio caso la fortuna, le persone, la mia stessa indole ha fatto sì che tutte le volte in qualche modo un po' sulle ginocchia, un po' sulle gambe mi sono rialzato, e questa cosa non l'ho perduta. Sinceramente, con un po' di presunzione ti dico che credo che non la perderò mai. E questo è il bello, secondo me, di questo romanzo. Duccio Forzano, grazie innanzitutto per averci regalato questo libro, Come Rocky Balboa, pubblicato da Longanesi. Un libro sulle cui pagine a volte veramente mi sono commossa, ti ho detto, mi veniva voglia di abbracciare questo Duccio personaggio, e quindi alla fine di questa intervista abbraccerò Duccio invece vero in carne e ossa. Ed è un romanzo, secondo me, una storia di vita, di come veramente le cose possono cambiare nella vita se si ha la forza di volontà, magari anche un pizzico di fortuna. Quindi è un libro che consiglio veramente a tutti di leggere. Duccio Forzano, Come Rocky Balboa, pubblicato da Longanesi. Il cacciatore di libri. Lei si chiama Kathleen Shine, è una scrittrice americana, forse ricorderete uno dei suoi bestseller, La lettera d'amore, che era uscito in Italia nel 1996. Ora è in libreria con Le cose cambiano, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Stefano Bortolussi. È un romanzo sulla vecchiaia, insomma, perché è la storia di Joy, una donna, insomma, arrivata ad una certa età, che purtroppo rimane vedova, ed è la storia di questa Joy e dei figli, Molly e Daniel, che all'improvviso, diciamo, non sanno più come gestirla dal punto di vista psicologico, ma anche pratico, quotidiano, perché Joy è stata sempre il punto di riferimento di quella famiglia, quindi si ha un po' un ribaltamento dei ruoli. Ma perché Kathleen Shine ha deciso di scrivere ora un libro sulla vecchiaia? Sentiamola con la traduzione fatta in presa diretta da Anna Lubin. At the time that I began writing this book, I did not really. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, in realtà non era questo il contenuto sul quale volevo soffermarmi, però poi mi sono successi alcuni avvenimenti nella mia vita personale, per cui mi sono venute in mente delle riflessioni che ho voluto riprendere nel mio libro. Peraltro, ogni volta che incontravo gli amici, mi rendevo conto che